si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti ascoltatori, eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare nella sua collocazione naturale nel palinsesto di Radio 24, il weekend del sabato e della domenica mattina. Ritorna quindi il buongiorno in diretta di Radio 24, 349-238-6666, se volete scriverci anche i contatti consueti, ve li ricordo, per interagire con noi adesso nella prima parte, quando leggeremo i giornali, una veloce rassegna stampa che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8, poi inizieremo con i nostri approfondimenti. E vi dico subito che tra oggi e domani intervisteremo ben due personaggi che sono stati contattati, ma non è uno scherzo, per fare gli assessori a Roma. Non è uno scherzo perché sembra che, insomma, per fare l'assessore a Roma sia stata contattata mezza Italia e mezzi sono quelli che sono stati bocciati per un motivo o per l'altro. No, parliamo seriamente, ministri, assessori in pectore dell'ambiente, loro però non vogliono che si dica. Affronteremo anche questo argomento. La pagina Facebook di Si può fare, Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter @ Si può fare 24 e il mio account personale @ Ale Maurizi. Adesso iniziamo con i giornali, vai. Allora, giornali che oggi si occupano naturalmente ancora degli strascichi della vicenda romana, con anche il Movimento 5 Stelle a dire tutta questa attenzione su Roma non c'è stata, su altre città non amministrate dal Movimento 5 Stelle che pure hanno avuto dei problemi, si riferiscono per esempio alla Milano di Sala e ad altre situazioni. Ma tant'è, Roma è la capitale, mancano ancora degli assessori e questo, di questo scrivono i giornali. Poi il vertice Euromed, il vertice nel quale si è parlato di cose europee, dell'austerity, è questo il titolo, il secondo titolo del Corriere della Sera. Austerity, Berlino attacca Italia e Francia, Renzi, la Germania rispetti le regole, Germania contro tutti, a difesa delle politiche di rigore in Europa e contro la strategia dei tassi bassi della Banca Centrale Europea. Il ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble attacca Renzi e Hollande per la loro partecipazione al vertice di Atene dei leader eurosocialisti. Renzi replica a Berlino: non rispetta le regole svincolando le risorse per la crescita, ma resta intransigente sulla flessibilità dei conti. E questo è un argomento che poi campeggia anche su altri giornali, naturalmente. Per esempio il Sole 24 Ore, che però vertice austerità, anti-austerità ad Atene, ora la crescita, Renzi, due punti, Merkel rispetti le regole sul surplus. Forse è la prima volta che questo argomento viene tirato in ballo da il Presidente del Consiglio italiano. Schäuble invece replica: siete irresponsabili, niente di buono dai leader socialisti. L'altro tema sul Sole 24 Ore, già che ci siamo, riguarda Monte dei Paschi. Pronta la svolta per Monte dei Paschi. Il titolo perde il 2,2%. Rossi di Banca Italia dice: preservare la stabilità verso il consiglio di amministrazione. Intanto si va per il sostituto di Viola. Morelli è favorito. E Renzi a dire: Siena non preoccupa. Giovedì il board della banca per la successione dell'amministratore delegato prende corpo la nomina di Marco Morelli. Nessuna preoccupazione da parte del governo. Renzi dice: la strada è tracciata. Della vicenda Monte Paschi si occupa anche il Fatto Quotidiano, ma con un altro taglio. Dice Renzi: la politica fuori dalle banche, però caccia Viola, accusa il Fatto Quotidiano. Il successore indicato dal colosso del credito americano JP Morgan per la discontinuità è Marco Morelli, già multato dalla Banca d'Italia, era lì al tempo di Mussari. E allora, questo per quanto riguarda la vicenda Montepaschi. L'altro argomento in primo piano sui giornali di oggi, dicevamo, è Roma. Adesso leggiamo i titoli, poi leggeremo anche degli articoli. Caso Roma, il calo dei 5 Stelle, il Corriere della Sera, ma restano il primo partito. Grillo scrive al Corriere, non siamo perfetti. Il riferimento è appunto al... anche ai sondaggi, no? Che, di cui si occupano sia il Corriere, tra l'altro, sia Repubblica, con esiti però diversi. Il Corriere vede una flessione nel Movimento 5 Stelle, che però resta diciamo, il primo partito. Invece per Repubblica, che titola Effetto Raggi, il PD supera il Movimento 5 Stelle, secondo il sondaggio Demos Repubblica i Dem salgono al 32%, i Grillini scendono al 29%, la destra in crisi. E questi sono appunto i sondaggi, in questo caso di Repubblica, sulla situazione politica all'indomani di questa, insomma, inevitabile dirlo, brutta pagina per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, che, insomma, l'ho detto anche ieri in questa lettera al Corriere, Grillo ci torna su, leggeremo magari un passaggio tra poco, non siamo perfetti, ma non ci arrendiamo. Vediamo subito. Il leader garante dei 5 Stelle ha inviato, Beppe Grillo ha inviato al Corriere un suo intervento sui problemi della giunta guidata da Virginia Raggi nella capitale. Dopo giorni di fila di dibattiti sul nulla, ma che pagliuzza e che trave? Si domanda Grillo. Cioè, la pagliuzza sarebbe il Movimento 5 Stelle, la trave sarebbero i grossi problemi dell'Italia, nonché la situazione, su questo non ha tutti i torti, Grillo, praticamente fallimentare che riguarda la città di Roma da tanti punti di vista, non solo economico. Qui è un acaro contro un autotreno, scrive ancora Grillo, eppure non sono soddisfatto. L'inconsistenza assoluta delle stupidaggini che vengono discusse da trombatissimi pantaloni, appena tornati da ferie guadagnate, ossequiando questo e quello, mette a pensare, questo è lo stile di Grillo, naturalmente, mentre stiamo spiegando quello che sarebbe immaginariamente successo e tentando di portarlo sul piano della realtà, io non so, mi sfugge l'audience di questo nulla, cioè tende a minimizzare quello che sta accadendo a Roma rispetto al resto dei problemi italiani, appunto come dicevamo prima. Straparlano come nelle puntate di Vespa coi plastici? Tutta quella meticolosa stupidità, tutto quel feticismo dei dettagli minuto per minuto che cerca alibi a tutti i costi, impedisce la visione d'insieme e distrae dalla verità dei fatti. Questo, insomma, Grillo, per chi vuole leggerlo, c'è tutto il suo intervento sul Corriere della Sera, nel quale poi appunto ribadisce questo concetto: non siamo perfetti, ma non ci arrendiamo, andiamo avanti con la nostra umanità. Grillo chiede che ci si interessi dei fatti, però insomma i fatti sono anche quelli, per esempio, che riporta il Fatto Quotidiano, per l'appunto un giornale non pregiudizialmente contrario al Movimento 5 Stelle, che riportando le parole di un'altra persona vicina al Movimento 5 Stelle, Elio Lannutti, dice, per esempio, parlando di un assessore scelto dal Movimento 5 Stelle, non parliamo di inchieste, non parliamo delle pagliuzze di cui parla Grillo, ma parliamo dei fatti. Muraro non andava scelta e neppure Marra va bene. Questo ieri sul blog di Grillo, Lannutti ha usato un testo per dire no grazie alle Olimpiadi, le vuole solo qualche costruttore che fa l'editore, Caltagirone leggi, diciamo l'argomento principale di Lannutti sul sito di Grillo è stato il no alle Olimpiadi, il presidente dell'Adusbef, l'associazione dei consumatori, che però appunto ha avuto un commento anche sull'assessore all'ambiente Muraro, che adesso è venuto fuori, è stata consulente di Manlio Cerroni, il re di Malagrotta, l'imprenditore titolare della discarica che per anni si è arricchito con il fatto che si gettassero in maniera indifferenziata i rifiuti nella discarica, forse la più grande d'Europa. Direte voi, non è un male? No, a parte che Cerroni è inquisito per svariate ragioni, tra cui traffico illecito di rifiuti, però è un modello sul quale il Movimento 5 Stelle ha detto sempre di non voler più puntare, sarebbe l'ora di aumentare la raccolta differenziata, tutti lo dicono, zero rifiuti, ma poi nessuno lo fa. Non lo fa sicuramente, almeno sulla carta, una come appunto Paola Muraro, l'assessore scelto dalla giunta Raggi, che oltre ad essere stata consulente di AMA per diversi anni con uno stipendio, un ricco stipendio, sempre adoperandosi affinché venissero utilizzate le discariche o gli impianti come Rocca Cencia, dove appunto finiva il sacco nero, quello con tutto dentro, raccolta indifferenziata, era consulente di Cerroni, ma soprattutto appunto era una rappresentante nel mondo delle aziende inceneritori e discariche, tutto quello che il Movimento 5 Stelle ha sempre detto di voler abbandonare. E allora è lì che casca l'asino: Muraro non andava a scelta. Questo è il giudizio di un personaggio vicino al Movimento 5 Stelle come Lannutti, che non la manda a dire da questo punto di vista. E allora invece, sempre stando agli approfondimenti dei giornali, torniamo per un attimo su Monte dei Paschi di Siena, sempre dal Fatto Quotidiano, perché l'accusa è che Renzi, è stato Renzi a cacciare Viola dalla guida del Monte Paschi Siena. L'ordine di far dimettere Fabrizio Viola da amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, scrive Giorgio Meletti, è partito dal presidente del Consiglio Matteo Renzi in persona. Vediamo come faccia ad avere questa informazione Meletti, ma insomma stiamo parlando dell'uomo che rivendica la parola d'ordine fuori la politica dalle banche. Anche martedì scorso, parlando a Porta, Renzi ha ricordato che grazie al suo governo la politica non mette più bocca nelle banche. Poi ha aggiunto a Porta dissi che se un soggetto avesse voluto prendere Monte dei Paschi di Siena avrebbe potuto farlo a condizioni ottime, e lo confermo oggi. Allora, quell'affermazione che fatta da Renzi alcuni mesi fa si riferiva al fatto che adesso Renzi, il governo, ricordiamolo, è azionista del Monte dei Paschi di Siena, una piccola quota, dopo aver fatto un investimento che in quel momento venne venduto come investimento di salvataggio del strutturale del sistema bancario, e adesso quindi il governo è azionista, può dire la sua. Si parla di ricedere questa quota, e Renzi disse Monte dei Paschi adesso può essere un affare per qualcuno. Parole profetiche, prosegue Meletti sul Fatto Quotidiano. Renzi aveva già dato a Viola il pollice verso, e il soggetto in grado oggi di prendersi il monte a condizioni ottime è proprio la JP Morgan, il colosso bancario americano che il 6 luglio scorso è stato ricevuto a Palazzo Chigi nella persona del numero uno mondiale Jamie Dimon, e presentato ai suoi che ha presentato i suoi piani per Rocca Salimbeni, cioè per la sede del Monte dei Paschi, trovando nel premier un ascolto entusiasta. Lavorato ai fianchi da settimane proprio dagli uomini da JP Morgan, Viola ha gettato la spugna quando ha capito che era il governo a volere la sua testa, e che Palazzo Chigi aveva già benedetto il successore designato Marco Morelli. JP Morgan e Mediobanca, le due banche d'affari incaricate di portare a compimento l'aumento di capitale necessario a salvare la terza banca italiana, hanno fatto sapere per le vie brevi a Renzi che, con un segnale di discontinuità al vertice, il non meglio identificato mercato avrebbe reagito meglio alla richiesta di mettere altri 5 miliardi su una banca che in borsa vale 700 milioni. Un po' complicato, ma insomma con queste parole il Fatto Quotidiano, diciamo, spiega il titolo, che è Renzi caccia Viola dal Monte dei Paschi. Allora, altre Repubblica, dopo l'intervento sul Corriere di Beppe Grillo, su Repubblica invece c'è un'intervista a Giorgio Napolitano, che dice: basta guerra sul referendum, ma l'Italicum va cambiato. Una serie di dichiarazioni Napolitano che insomma, vale la pena forse di, adesso le leggiamo tra un attimo dopo il traffico, perché lui stesso lo ricorda in questa intervista, quando gli venne chiesto tre anni fa a questo punto di fare il secondo mandato in ginocchio perché non si trovava un presidente, non si trovava un accordo fra destra, sinistra, Movimento 5 Stelle, eccetera eccetera. Tutto in ginocchio da Re Giorgio, ricordate i titoli di quei giorni, adesso le parole, l'opinione di Re Giorgio sulla riforma costituzionale e sulla legge elettorale, tra poco dopo il traffico. Vi aspettiamo a Made in Malca, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta... E allora, eccoci qua, di nuovo buongiorno ascoltatori da Alessio Maurizi, ben ritrovati. E dicevamo dell'intervista a Giorgio Napolitano sulla Repubblica da parte del direttore Mario Calabresi. Assurda la guerra alle riforme, serve un accordo per cambiare l'Italia, con il titolo. Non vedo, dice Napolitano, parlando un po' della situazione generale sulle riforme, non vedo abbastanza respiro, capacità di elevarsi al di là di tante dispute estremizzate, di ritrovarsi in alcuni grandi esigenze di impegno comune. Cioè Napolitano dice il dibattito sulle riforme fa schifo, questo sintetizzo io, è come dargli torto, in effetti è così, non si capisce niente, dichiarazioni strumentali, la stessa riforma che non è stata mai né discussa né presentata in maniera decente, devo dire, ma insomma questo giudizio se lo dice Napolitano, non è che lo dico io, ma prosegue Napolitano, mi spinge a far sentire la mia voce anche il tentativo di molti di cancellare, questo è il punto che dicevo prima, il ricordo di quella pressante richiesta rivoltami dopo le ultime elezioni ad accettare il secondo mandato di presidente, e il ricordo del discorso di quel 22 aprile 2013, quando accettò quel secondo mandato, al Parlamento riunito, in cui diedi conto del perché avevo accettato, a quali condizioni, l'invito quasi unanime a continuare. Cioè Napolitano mette lì una carta pesante, dice adesso io parlo, dico quel che penso, perché ricordatevi che io sono la stessa persona a cui in ginocchio siete venuti quasi tutti parlamentari a chiedermi di fare questo secondo mandato perché non trovavate un accordo, io sono quello lì. E poi prosegue. A proposito di questo dibattito sulla riforma costituzionale che non è decollato come avrebbe dovuto, chi è responsabile di quella che lei definisce una guerra? Ma è noto, dice Napolitano, che io non ho condiviso la iniziale politicizzazione e personalizzazione del referendum da parte del Presidente del Consiglio quando Renzi disse se non me la votate me ne vado a casa, che fu appunto quella cosa lì, cioè la personalizzazione e legare la riforma costituzionale all'andamento del governo. Fu un errore, secondo Napolitano, ma secondo molti. Nulla può giustificare adesso, però, prosegue Napolitano, la virulenza di una personalizzazione alla rovescia, operata dalle più diverse opposizioni, facendo del referendum il terreno di un attacco radicale a chi guida il PD e il governo del paese. Adesso la manda a dire non più a Renzi, ma agli oppositori di Renzi. Non usate il referendum costituzionale per attaccare Renzi, lo dice al Movimento 5 Stelle, lo dice a Forza Italia, lo dice alla minoranza, soprattutto forse del PD che ce l'ha su con Renzi e sta infilando il coltello nella piaga anche per quanto riguarda la riforma costituzionale. Basta pensare alle parole di Massimo D'Alema in questi giorni ancora estivi di feste dell'Unità, nelle quali D'Alema su questo è andato giù pesante. Poi prosegue l'intervista, molti però dicono che questa riforma sia un'occasione mancata. E risponde Napolitano, è bocciandola che se ne farebbe un'occasione mancata, lasciando credere che si potrebbe ripartire da zero e fare meglio. Quindi Napolitano dice, no, guardate che non si può ripartire da zero e fare meglio, sarebbe la terza volta, anzi è la terza volta che si affronta una riforma costituzionale poi bocciata in passato dai referendum o abortita in bicamerale quando fu il caso di D'Alema. E tanto per tornare appunto all'ex presidente del PDS, segretario del PDS, presidente del Consiglio D'Alema, quindi Napolitano dice è questo il momento per fare la riforma. Però poi sul discorso, quindi riforma sì, legge elettorale da cambiare, questo è l'altro punto. Napolitano l'ha già detto altre volte, e questo è il concetto che ribadisce, rispetto a 2 anni fa lo scenario politico risulta mutato in Italia come in Europa, ci sono nuovi partiti, alcuni dei quali in forte ascesa che hanno rotto il gioco di governo tra 2 schieramenti, che in passato erano il PD e Forza Italia. Con il rischio, o il centrodestra e il centrosinistra, con il rischio che vada al ballottaggio previsto dall'Italicum e vinca chi al primo turno ha ricevuto una base troppo scarsa di legittimazione col voto popolare. Si rischia di consegnare il 54% dei seggi a chi al primo turno ha preso molto meno del 40% dei voti. Ritengo che questi altri aspetti dell'Italicum meritino di essere considerati. È vero, è verissimo, però ricordiamoci che già nelle elezioni del 2013, quelle che poi consegnarono il paese diviso il secondo mandato a Napolitano, il governo di unità, semi-unità di Renzi, c'era già un tripartitismo, il Movimento 5 Stelle era già di fatto entrato nella contesa tra centrodestra e centrosinistra, quindi queste mutate condizioni di cui parla Napolitano sinceramente non si capiscono. Comunque, va avanti l'intervista. Cambiare la legge elettorale oggi non può sembrare un modo di cercare di fermare il Movimento 5 Stelle, è una domanda che pensano tutti. Risponde Napolitano: non mi sono mai posto il problema di trovare un marchingegno per impedire una possibile vittoria dei 5 Stelle. Vabbè, cosa doveva altro rispondere? Comunque, queste sono alcune delle parole dell'ex Presidente della Repubblica, che appunto avala la riforma costituzionale, ma dice sull'Italicum si può fare una modifica, e poi aggiunge: c'è una proposta di esponenti della minoranza PD, tra i quali Speranza, è una buona proposta degna di essere considerata. Allora, cambiamo giornali, cambiamo argomenti. Libero, per esempio, si occupa del Movimento 5 Stelle, del caos di Roma, ma gli dà un altro taglio e scrive: Grillo, basta cabaret, fai tu il capo del Movimento 5 Stelle. Due commenti di Paolo Becchi e di Vittorio Feltri che vanno nella stessa direzione. Se c'è, scrive Becchi, sì, non c'è altro modo di dirlo, proprio non lo trovo. Grillo, hai rotto i coglioni, non se ne può più, non se ne può più di questo balletto. Faccio un passo indietro, poi uno di lato, poi uno in avanti, ora un po' più a destra, ora un po' più a sinistra. L'invito è a farsi avanti, a prendere in mano le redini del Movimento 5 Stelle. Commenta anche Feltri: ha ragione da vendere il professor Becchi, è ora che Beppe Grillo scenda dal palcoscenico, dove pur si guadagna molto, per dedicarsi alla politica. Occuparsene a mezzo servizio è una forma di opportunismo intollerabile in un uomo che, con tutti i suoi difetti, ha fondato un movimento cresciuto a dismisura in pochi anni. Ancora sul Manifesto, per occuparsi dei dati economici, che sono quelli secondo cui aumentano i licenziamenti. Con il Jobs Act aumentano i licenziamenti e calano i contratti. Jobs Act è uno zombie, scrive Manifesto, utile da presentare ai vertici europei per ottenere le lodi della Merkel in cambio di qualche briciolo di flessibilità in più per i bonus elettorali di Renzi. La verità è un'altra: secondo i dati del Ministero del Lavoro, eliminato l'articolo 18, le aziende licenziano più 7,4%. Tagliati gli sgravi contributivi, i contratti a tempo indeterminato continuano a calare, meno 29%. Peccato che il governo abbia raccontato altro negli ultimi due anni. C'è anche sul caso Regeni le parole, diciamo, di fiducia. Torniamo su Repubblica. L'Egitto ammette: controllavamo Regeni. Regeni, prima svolta. Ora l'Egitto ammette: i nostri poliziotti indagarono su di lui. Il nero diventa grigio, scrive Carlo Bonini, l'impossibile diventa probabile. E per la prima volta da quando questa storia è cominciata, nella prosa ingessata di un comunicato ufficiale a firma congiunta con le autorità egiziane, compare la parola tortura. Non siamo alla scoperta degli assassini di Regeni, ma l'ultimo vertice tra magistrati italiani e egiziani ha diciamo squarciato il sudario delle ipocrisie. La novità è che le autorità egiziane hanno ammesso di avere un documento che era una denuncia da parte di il capo del sindacato dei venditori ambulanti, Mohamed Abdallah, che accusava Regeni di corruzione per aver cercato di corrompere i sindacalisti. In realtà lui voleva coinvolgerli in una ricerca con un finanziamento di Cambridge. Insomma, questo ha spinto le autorità egiziane ad indagare su Regeni, che quindi era sotto tutela in qualche modo. È tutto per questa rassegna stampa. Noi ci risentiamo dopo il giornale radio con Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, buongiorno, ben ritrovati, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ripartiamo. Ripartiamo, sì, è la prima puntata. Mi siete mancati tutti moltissimo. Adesso tu hai fatto anche grandissima parte di agosto. Invece Reggenza. A me mi siete proprio mancati. Quindi non vedevo l'ora, è proprio il mio primo giorno di scuola. Anche tu ci sei un po' mancato. 800 24 00 24. Ascoltatori, riparte, quindi si può fare. Il buongiorno del weekend di Radio 24, il sabato e la domenica mattina. Stiamo insieme fino alle 10. Vi aspettiamo per stare con noi per commentare le storie che vi raccontiamo, le buone pratiche. Ne andiamo sempre a caccia, siamo golosi. Anzi, oggi vi chiediamo, visto che siete appena tornati belli freschi dalle vacanze, di raccontarci cosa avete imparato, cosa avete visto di bello in giro per il mondo, ma anche per l'Italia. E che cosa portereste qui? Cosa portereste qua? Cioè, delle buone pratiche incontrate in giro, per esempio, durante le vostre vacanze estive, che avete detto, ecco, se questa cosa la si facesse anche in Italia, quanto sarebbe bello. Sarebbe bello. Per esempio, vi racconteremo in chiusura di puntata la straordinaria vicenda in Cina, dove in una notte è stato tirato giù un cavalcavia per far posto ai lavori per la metropolitana. Cioè in una notte. Centinaia di ruspe all'azione. Cioè, uno dice, anche in Italia ci vorrebbe una roba così per tirar giù, sai, tutta quella ecomostro di cui parlavo. Oppure Claudia Schiattone è stata in vacanza a Lubia. Posso dirlo? L'ho detto? È stata a Lubiana, non in vacanza, è stata a Lubiana e ha visto Città Green. Perché dici che non puoi dire la parola vacanza? Forse non puoi dire la parola a Lubiana, perché lei invece magari a casa ha detto che era in vacanza dall'altra parte. Esatto, ormai è andata, ormai si può dire, ha detto, ha fatto così col pollice, si può dire. Ha visto che Città Green europea, tutte auto elettriche in città, una meraviglia. Cioè uno dice Lubiana, non si aspetta, invece sì, vedi? Bellissimo. E questa va portata. Io invece sono stato in Portogallo, posto bellissimo, incredibile, straordinario, con una cosa che non importerei dal Portogallo è la differenza di prezzo fra l'acqua naturale e l'acqua frizzante. Non so per quale motivo l'acqua frizzante costa 3 volte tanto, ma sei proprio anche dai menù. Sei stato scottato da questa cosa, me l'hai detto. Scottatissimo. Io invece... anche perché voglio a questo punto portare una botte di acqua frizzante la prossima volta che vado in Portogallo, così mi pago le vacanze vendendo delle bottigliette da 0,25 di acqua frizzante. Può essere un'idea. Io invece fatto un giro per l'Italia in macchina con la mia famiglia e ho visto tante piccoli paesi, città piccole inaspettatamente molto attive sul fronte della raccolta differenziata, il porta a porta in tanti posti. È un po' scomodo perché devi fare il lunedì l'umido, il martedì quella, però stanno raggiungendo, tipo per esempio Montefiascone, che è un paese di famiglia per me, in provincia di Viterbo, in poco tempo ha raggiunto ottimi risultati col porta a porta. È faticoso, ma tanti cittadini lo stanno facendo. La vera domanda è: bello, sapevano che tu stavi per passare con il tuo tour? Sì. Perché voglio dire, noi di questo ne parliamo spesso, quindi secondo me proprio si è sparsa la voce, dice arriva Alessio Maurizi, tocca fare l'umido. Hanno messo dei cartelli finti di esatto, raccolta porta a porta. 800 24 00 24, quindi chiamateci anche oggi, come sempre mettiamo in palio biglietti di una delle mostre, estraiamo dal catalogo, dallo scatolone le mostre organizzate dal gruppo 24 ore per il racconto più originale, più divertente, buone pratiche importate dall'estero, ma anche se volete anche dall'Italia, per farle conoscere da ovunque. Se qualcuno è andato in Cina ovviamente e ha assistito all'abbattimento del cavalcavia, vince tutto, sbaraglia la concorrenza. Adesso iniziamo con il nostro cavallo di battaglia, parliamo di slot. Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari e non incolpate me se ci gettate dei denari, non ho colpa. Se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bambera, e vi coccola l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. Se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo. Allora, Matteo Renzi ha annunciato in una intervista: stiamo per mettere appunto una misura per togliere le slot machine da tabaccherie ed esercizi commerciali. L'ho letta e ho detto anche questo, ho detto anche Matteo Renzi ascolta la nostra trasmissione, ci ascolta, ci segue. Quanto ne abbiamo quanto parlato. Abbiamo rotto le scatole. Allora, noi abbiamo detto più volte, non è una crociata contro l'azzardo, contro le slot, figuriamoci, uno fa quello che gli pare, ma è un modo per affrontare il tema della ludopatia, che riguarda un sacco di gente che si sputtana, si può dire, sì, perché la parola è brutta, però è proprio brutta la faccenda anche, quindi certo, bisogna usare anche parole adatte, stipendi, pensioni al gioco. E poi anche riguarda anche le nostre città, che sono cambiate in questi anni, hanno chiuso librerie, cinema, teatri, hanno aperto innumerevoli sale slot. Però le sale slot non sono quelle. È un'altra cosa. Qua si tratta proprio di toglierle dai bar e nel caso di lasciarle nelle sale slot, perché almeno uno sa dove sta andando, ma non che mentre è lì a bersi un caffettino gli viene proprio la voglia di giocarsi 3 euro. E allora abbiamo chiesto Manforte al sottosegretario dell'economia con delega ai giochi Pierpaolo Baretta. Buongiorno, grazie per essere di nuovo con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Per capire un po', perché sappiamo come è fatto l'uomo Renzi, che ogni tanto esce con degli annunci, poi vogliamo capire se sotto c'è della sostanza, se ne avete parlato, se c'è qualcosa. Lei già altre volte ci aveva anticipato che c'erano allo studio delle misure, tra cui anche questa di togliere le slot, insomma, dai bar e dalle tabaccherie. Però in che modo pensate di fare questo? Dunque, noi ci stiamo lavorando da mesi perché abbiamo constatato come ci sia stato un eccesso di offerta di gioco, soprattutto nella distribuzione del territorio. Allora, alcuni mesi fa, nella legge di stabilità di quest'anno, che è valida per quest'anno, quindi a dicembre, abbiamo deciso una riduzione complessiva del 30%, almeno del 30% delle slot, da applicarsi ovviamente in un paio di anni. E questo però non riguardava ancora la distribuzione con la quale questo avveniva. E dopodiché abbiamo pensato che la soluzione migliore era quella che avete detto voi poco fa: meglio razionalizzare su sale controllate, sulle quali tra l'altro alzeremo molto il controllo di qualità e anche di gestione, perché non è che le sale di per sé comunque vada sono positive anche nella loro distribuzione territoriale. Gli enti locali stanno per esempio lavorando molto su sulle distanze. Noi dovremmo trovare su questo un punto d'equilibrio, ma soprattutto ridurle nel punto più di contatto con il cittadino, che sono appunto i bar dei tabacchi, tenendo conto dei minori, perché mentre nelle sale è proibito l'ingresso dei minori, certamente nei bar e nei tabacchi si può impedire l'ingresso. Ecco, però quindi razionalizzare l'offerta e andare nella direzione di concentrare il gioco d'azzardo nelle sale, cioè uno piglia e va e entra in sala, e quindi diminuire invece... E toglierli sostanzialmente dai bar e dai tabacchi, che sono il punto più esposto, anche perché c'è stata una distribuzione nel territorio senza criteri. Però non è facile questo, perché sappiamo che per molti bar è diventata a questo punto la macchinetta mangia soldi, è però una forma di introito, 3, 4, 500, a volte anche 1000 euro per un piccolo esercizio sono diventati un guadagno, ahimè, che fa gola. In che modo però pensate di poter intervenire su questo? Cioè, per quanto riguarda nuove concessioni o anche le concessioni che ci sono già? No, anche le concessioni che ci sono già, perché altrimenti avremo una situazione, diciamo, non cambieremo la realtà. È chiaro quello che lei ha detto, l'abbiamo ben presente, tant'è che già con la Federazione dei Tabaccai abbiamo avuto un primo incontro per ragionare anche sulle conseguenze. Noi dovremmo aiutare gli esercizi commerciali a superare la presenza delle macchinette nei loro esercizi, sapendo che le cifre che le ha dato sono corrette, si va anche verso i 1000 euro ogni tanto. Quindi può essere la logica dell'incentivo, l'incentivo fiscale, come hanno fatto alcune regioni, comune, non paghi l'IMU, paghi meno di qualche cosa. Esatto, dobbiamo trovare assieme agli enti locali con i quali è aperto un confronto un piano applicativo. Ma non c'è dubbio. Non ce l'avete ancora, però? Quindi conferma che Renzi ha lanciato un po' il cuore oltre l'ostacolo? No. Ha concretizzato l'idea che vorremmo realizzare tra qui e dicembre. Ma mi scusi, questa questione della concentrazione in luoghi deputati e quindi un po' fuori dai bar, ma di avere delle sale slot, non rischia poi di creare delle sorte di casinò o anche dei luoghi in realtà alla fine più pericolosi del bar? Io, diciamo, fra i due, tra me e Alessio, sono quello meno che vorrebbe chiudere tutte le slot machine, perché non penso che sia semplicemente chiudere. Penso che poi le persone continuerebbero a giocare comunque, e quindi mi chiedevo se questa cosa della concentrazione porta dei benefici o meno. Ma guardi, intanto un'osservazione sulla battuta che lei ha fatto, perché c'è sempre il rischio del gioco illegale, quindi noi siamo molto preoccupati anche del fatto che dietro l'angolo la malavita che è organizzata nel gioco lo prende in mano la situazione, e quindi le sale hanno anche come scopo di tenere a freno una diffusione dell'illegale. No, certamente tra la diffusione pubblica nel territorio, pensi alle periferie delle nostre città, in alcuni bar non controllati, e le sale, c'è maggior controllo nelle sale, però il nostro obiettivo è ridurre complessivamente l'offerta di gioco, non semplicemente quindi anche il numero totale. E quello numero però totale. Per me ho un secondo dubbio, nel senso che da un lato è comprensibile, anzi mi sembra anche giusto per il problema della ludopatia, ci mancherebbe, però il rischio non è che si sposti poi tutto online, le persone continuino a giocare online e noi ci teniamo la ludopatia, con la piccola differenza che però i soldi vanno tutti in realtà all'estero, perché la maggior parte dei siti online non sono italiani. No, il problema dell'online è un problema drammatico e serissimo sul quale bisogna... Perché si diventa poveri anche sull'online, non è che si diventa poveri solo giocando al bar. E bisogna anche riconoscere che il punto più debole dal punto di vista della capacità di intervento nostro e dell'autorità di controllo, perché è chiaro che sfugge facilmente. Però attenzione che l'online cresce indipendentemente dalla razionalizzazione del territorio, quindi... noi dobbiamo combattere in entrambi i fronti, bonificare, uso questo termine, il territorio dall'eccesso di offerta delle macchinette, contemporaneamente organizzarci, lo dico con molta sincerità, è un terreno molto difficile quello online, ma che è fondamentale, anche qui ci vuole una legislazione europea. Che quindi insomma lei dice sono due terreni in qualche modo separati, a tenere sotto controllo tutte e due, ma noi per il momento stiamo agendo sulla questione del territorio. Lei ha detto meno 30% di slot in due anni, Renzi ha detto eliminarle dalle tabaccherie. No, io ho detto meno il 30% complessivo. Sì. Nel 30% complessivo ci sono tutti i tabacchi, toglierle da bar e tabacchi. Quindi lei conferma, eliminati da bar e tabacchi, cioè non ci sarà più un bar in Italia dove c'è una slot, dove c'è una macchinetta? Ma oddio, a meno che non sia un bar che abbia una tale capacità di spazi da poter organizzare una specie di sala dedicata. Quindi ci vuole una sala dedicata, non sarà più a fianco al bancone normale. L'ingresso, cioè l'utilizzo libero, tutte queste cose che hanno determinato la crescita della ludopatia. Senta, una domanda importante però riguarda gli incassi dello Stato, perché lo sappiamo che quando si parla di azzardo lo Stato incassa quasi, se non ricordo male, su questo capitolo circa 9 miliardi di euro, giusto, l'anno? 9 miliardi complessivo sul gioco, non solo sulle macchinette, complessivamente l'entrata da giochi. E quindi anche il Superenalotto? Sì, Superenalotto, Gratta e Vinci, eccetera, fa un'entrata di circa tra gli 8 e i 9 miliardi. Quasi 9 miliardi. Ecco, ma è stato detto anche che aumenterà il prelievo per unità sulla singola slot, quindi diminuiranno le slot, ma il prelievo aumenterà, per cui possiamo immaginare gli incassi rimarranno immutati o anche lo Stato farà un passo indietro e rinuncerà ad alcuni di questi incassi? No, intanto l'aumento... Sul prelievo sulle slot è già stato fatto l'anno scorso, io penso difficile che ce ne sia un altro, quindi noi dobbiamo mettere in conto una riduzione delle entrate. Quindi una riduzione di che ordine più o meno ci può dire? Diciamo, noi abbiamo già fatto dei calcoli lo scorso anno relativamente al 30%, qualche centinaio di milioni di sicuro, però il gioco va alla candela, insomma. Ok, quindi qualche centinaio di milioni che deriveranno entreranno in meno di introiti solo dalle slot. Sono già stati calcolati nella riduzione del 30%, quindi sì, effettivamente. Solo dalle slot. Perfetto. E sul tema invece della pubblicità, è prevista anche in questo caso una riduzione di che tipo su canali pubblici? Ma per guardi, esempio? Noi abbiamo già preso una decisione di bloccare la pubblicità tra le 7 del mattino e le 22 in tutti i canali generalisti, abbiamo già fatto il decreto applicativo che lo impedisce. La mia personale opinione è che non è sufficiente, però ci vuole una legislazione europea, perché per esempio nei tabacchi esiste una regola unica in tutta Europa che impedisce la pubblicità, e allora anche la concorrenza è ben gestita. Se invece nei giochi non c'è una legge europea, quindi tra le proposte che io ho fatto c'è anche quella che il governo italiano apra un confronto con con l'Europa per andare a ulteriori forme di divieto della pubblicità. Senta, ci arriva una obiezione via SMS al 3422386666, dice in qualche modo volete ristabilire una sorta di monopolio in mano a pochi, eliminando, come diceva lei, l'offerta di azzardo, di slot sul territorio, ma concentrandola nelle sale, quindi diminuire le slot vuol dire dare tutto in mano ad alcuni grandi player, è vero? No, non è così, anche oggi sono i concessionari che gestiscono il gioco, anche quello delle macchinette nei bar, sono 13 concessionari, quindi non sono nemmeno pochi, che gestiscono il volume complessivo del gioco in Italia. Quindi da questo punto di vista c'è un rischio che può essere evitato benissimo attraverso le gare che noi facciamo tutte le volte che viene stabilita il rinnovo delle licenze. Ma in ogni caso la questione principale è la riduzione dell'offerta, che mi pare il tema sul quale il paese ha fatto delle richieste esplicite. Certo. Per correttezza c'è anche un messaggino che invece dice: gli anziani che magari non guidano, che si mangiano la pensione nel bar sotto casa, non si spostano in una sala lontana, quindi mi sembra un'ottima proposta del governo. Vedi, ogni tanto arriva anche qualche applauso. È giusto, è sì. Giusto, perché sennò uno legge solo gli SMS negativi. Va bene, grazie al sottosegretario Baretta, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie. E vedremo, aspettiamo quindi ulteriori novità sul fronte della riduzione dell'offerta di slot che va verso una concentrazione nelle sale. Io su questo sono d'accordo, perché cioè, si va nelle sale, se uno vuol giocare, anziché ritrovarsela nel bar tabacchi dove può anche non centrarci nulla. Io vado a bere un caffè, mi ritrovo la macchinetta e mi viene voglia di giocare. Se invece è il solito discorso, lo però, scelgo, vado. È verissimo, però a volte, d'altro canto, se uno poi inizia invece a giocare, finisce dentro nel giro proprio delle sale, slot, sì, che a volte sono molto peggio del bar sotto casa dove viene giù tua moglie, ti prende per l'orecchio e ti tira su a casa. Quindi, insomma, dipende. Però sono tristi questi angoli dei bar. Devo dire, la maggior parte delle volte sono angoli un po' bui. C'è gente che si chiama gioco, ma non c'è niente da ridere. Sono molto tristi, però almeno sono a vista a volte così. Se invece sono molto tristi, sono tutti chiusi in una specie di ghetto del gioco lontano dalla via, non so se sia meglio. 800 24 0024, ascoltatori, vi aspettiamo per dire la vostra e ci fermiamo per un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno e buon sabato a tutti. Tra poco sarà con noi Rossano Ercolini, quindi grande rentrée anche per lui. Bello, è bello riniziare anche con tutto nuovo, ma tutto nella tradizione di Si può fare. Chiediamo anche a lui se in vacanza ha visto qualche bel Si può fare in giro o se è stato tutto l'estate a fare incontri sulla questione dei rifiuti, perché mi sa che lui le vacanze le ha fatte così. Emanuela, dalla provincia di Bergamo, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io volevo raccontare questo. Ormai sono circa 10 anni che vado in Croazia in vacanza, sì, e vedo, sia che io vada in un villaggio oppure nelle case private, che ci sono tante persone che possono essere anziani o ragazzi anche giovani che tengono pulitissimo la raccolta della plastica, del vetro, e quindi passano cassonetto per cassonetto, lo puliscono appunto di quei materiali lì e poi vanno nei centri di raccolta, dietro compenso che può essere qualche centesimo di cuna. Fanno passare i bidoni dalla spazzatura recuperando la plastica per riciclarla e poi la fanno portano. Fanno abbastanza impressione perché insomma mettere le mani nella spazzatura non è. Cioè, ma queste persone lo fanno extra rispetto ai servizi, quelli di pulizia? Perché sono anche persone semplici, vabbè, anziani, magari anche un po' malmessi, non so. Lo fanno per recuperare un po' di soldi. È il tema dei turisti, di quanto vengono pagate le materie prime, la plastica, esatto, eccetera, eccetera. In Italia, esatto, si comincia a fare qualcosa del genere. Ci sono delle macchine, per esempio, cosiddetti bancomat della plastica, dove tu porti la, esatto, bottiglia e ti danno un piccolo chip. E questo in Croazia, lei dice, avviene da regolarmente. Da 10 anni, vabbè, insomma, è un po' che ci vado e ho sempre visto queste persone che fanno questa cosa. E fanno la raccolta, loro prendono soldi e in effetti, sì, i turisti probabilmente non sanno questa cosa. Quindi quando comprano l'acqua, le birre, non so, il vetro, sì, e non vanno poi a riportare il cosiddetto vuoto a rendere. E qui non hanno reso, mentre, certo, loro lo sanno. Chi lo fa, chi lo sa, lo fa. Grazie Emanuela. È una cosa, devo dire, anche un po', forse ha un aspetto anche un po' triste, perché sono persone che evidentemente hanno bisogno, quindi andare, come diceva Emanuela, a ruffolare nel cassonetto non è, sì, beh, però non al di là del bisogno è il meccanismo, però, che funziona. Se tu dici, sì, questo oggetto ha un valore, non ha senso buttarlo, anche se il valore è minimo. Se c'è qualcuno, poi dopo, che è giusto, bisogno, se ci sono i turisti che non hanno voglia e, certo, lo lasciano lì, poi c'è qualcun altro che lo fa invece. Io ricordo nei posti tipo in Germania, dove c'è già da moltissimi anni, c'è il bicchiere, insomma la birra, te la fanno pagare un 50 centesimi in più, perché quando riporti il bicchiere ti danno i 50 centesimi. Ed è ovvio che quando si è giovani, i ragazzini che vanno in giro molto spesso raccolgono i bicchieri degli altri e la birra è gratis e si pagano la loro birra e va tutto bene. Francesco da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo intervenire sull'argomento del gioco d'azzardo, ludopatia, slot e quant'altro. Prego. Allora, ovviamente è nei fatti che la diffusione molto molto marcata del gioco, delle macchine da gioco, abbia aumentato la dipendenza da gioco e abbia avvicinato un pubblico diverso, prima insolito, al gioco d'azzardo. Però è un falso assoluto quello che stanno facendo passare, che togliere le macchinette del bar a vantaggio delle sale specializzate sia per combattere la ludopatia, se non altro perché le slot vanno a un euro a partita e comunque non vanno a caramelle, tolgono un sacco di soldi dalla carta, sia chiaro. Mentre invece le altre macchinette, le VLT, quelle nelle sale specializzate, vanno anche a carta moneta fino a 10 euro a tiro. Quindi sarebbe come, mi passi l'esempio, proibire l'utilizzo della fionda al pubblico e autorizzare il bazooka. Sì, ho capito Francesco, però è indubitabile che dover andare in una sala slot apposita è una soglia da superare. Entrare in un bar qualunque sotto casa e buttare qualche monetina è più facile, è più semplice. Poi l'esito si vedrà, se ha ragione lei, è possibile, però... sulla carta anche a me sembra un disincentivo, se devo essere onesto. Lei dice prima si poteva giocare solamente con un euro, invece questi posti bisogna andarci con 10. In realtà io ti tiro dentro nel gioco, perché tu devi metterci solamente un euro, se, esatto, la soglia minima è 10, forse no, sbaglio? Io sono dell'idea della riduzione del gioco e anche del gioco allargato, come è avvenuto negli ultimi 10 anni, perché non è che l'hanno portato gli operatori specializzati nei tabacchini, è stata la legge che l'ha voluto, sì, certo, la legge, certo, delle lobby. La legge delle lobby, ma la legge anche dei vari governi che avevano bisogno di far cassa, ricordiamocelo. Perché 9 miliardi sono 9 miliardi. Alcuni di quelli che sono al governo adesso erano al governo anche tempo fa, perché elemento di continuità. Sono 20 anni, sono 15 anni avanti questa storia, quindi ci sono passati tutti, per carità. Va bene Francesco, devo chiudere perché c'è il traffico. Grazie comunque per il suo intervento. 800 24 00 24 su questo e anche sulle buone pratiche che avete trovato in vacanza all'estero e che vorreste portare in Italia. Vi aspettiamo tra poco. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago 8-11 settembre. Vi presenta caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. 7000 caffè, Oh, 7000 caffè, cantava Alex Britti. In Inghilterra sono sempre di più quelli bevuti con le cialde. Con le cialde. Cioè non bevuti con le cialde, cioè, quelli prodotti con le cialde, prodotti poi bevuti come vogliono, insomma. Adesso se ne sono accorti perché ci rischia un diluvio di plastica. Questi inglesi che arrivano dopo la banda, Rossano Ercolini, ciao. Buongiorno, ciao. Ben ritrovato Rossano. Buongiorno. Dopo la pausa estiva, io ho detto chissà se Rossano ha fatto pausa estiva oppure se è andato in giro per l'Italia, perché io vedevo continuamente che postavi su Facebook, oggi incontro qua, incontro là, ti sei fermato mai? No, veramente non sono andato in giro, ma diciamo non ho fatto niente di vacanziero, ho lavorato su alcune cose per le quali non avevo mai avuto tempo, quindi devo dire che mi sono rigenerato in questo modo. Bravo, dossier, libri, cose, io mi immagino sempre Rossano a casa con un sacco di fogli, di carte che sta studiando, storie assurde, di rifiuti, di cose che poi vengono fuori, delle cose incredibili, tipo quello della lavazza, l'abbiamo già raccontato, però adesso che in Inghilterra la questione delle cialde è esplosa, in Italia non so se è esplosa, ma tu hai contribuito a farla esplodere. Sì, quando promuovemmo il caso nel 2010, trovando tantissime di queste capsule, io scrissi una lettera in primo luogo alla Lavazza, il giorno dopo rispose e da lì è cominciato un fitto confronto anche con l'associazione degli industriali che si chiama AIFA. E devo dire che dei risultati li abbiamo ottenuti. Poi se vogliamo facciamo anche un po' il punto della situazione. Sì, sì. Anche perché in questo articolo del, credo che fosse il Time, che il Times di Londra, sì, che diceva appunto attenzione perché in Inghilterra ci siamo accorti di questa questione delle cialde e si rischia un diluvio di plastica, si dice che chi sta cercando di correre ai ripari tra gli altri è la Nespresso, che ha annunciato entro il 2020, se ho letto bene, il 100% di capsula sostenibile, cioè riciclabile. Ora, a parte i tempi, perché il 2020 insomma potevano forse andare un pochino più veloci, ma cos'è la capsula riciclabile, cioè sostenibile? Perché invece quello su cui sei andato tu era la capsula compostabile completamente. Qual è delle due meglio? Sì, allora Nespresso è famosa per aver introdotto la capsula di alluminio attraverso un accordo con il consorzio Conai dell'alluminio, che si chiama CIAL, ha praticamente realizzato dei punti di raccolta inviando poi le capsule raccolte al riciclo dell'alluminio e al compostaggio, così si dice, però ancora prove trasparenti non ce ne sono. Poi le vogliamo da te le prove trasparenti? Manca la prova. Io devo dire che in Italia non è così chiaro che cosa fanno della parte compostabile, mentre della parte dell'alluminio è credibilissimo perché l'alluminio è anche ben pagato, per cui sono convinto che viene riciclato. Non lo buttano, quello non lo buttano. In Svizzera denunciano, cioè dichiarano di intercettare, di recuperare il 99% delle capsule, quindi devo anche dire che sotto la spinta di Nespresso, che è un grande competitor di Lavazza, anche Lavazza probabilmente è stata sensibile, anche se Lavazza ha lavorato sul versante della capsula compostabile biodegradabile. E, ho proprio visto in questi giorni, già sapevo, mi invitarono a Milano prima dell'Expo a presiedere, insomma a stare in platea quando avrebbero presentato la capsula insieme a Novamont, che è l'azienda che produce le bioplastiche. E, al momento non l'avevano ancora commercializzata. Adesso so che online è possibile acquistare le capsule biodegradabili Lavazza, ma Verniano, che è torinese, anche se molto più piccola, è un'altra azienda piccola, certo, più piccola del caffè, ma non piccolissima, anticipò Lavazza, quindi abbiamo ormai degli esempi di cosiddette capsule, in questo caso stiamo parlando di capsule biodegradabili. Nel frattempo poi sono venuti fuori altre, per esempio la Molinari è un'altra azienda che commercializza le plastiche, le capsule e le cialde biodegradabili, ma io mi appassiono, mi sono innamorato della capsula in cellulosa da canna da zucchero, che praticamente che è compostabile totalmente, in maniera più semplice. Nel tuo composto, perché se ci metto in invece la capsula Vergnano o la capsula Lavazza hanno bisogno di impianti di compostaggio industriale, perché i tempi di trasformazione, di biodegradazione sono più lunghi e quindi solo impianti industriali sono in grado. Ecco. A proposito, scusami, ero strano di questo, prego, perché ti annuncio una cosa di cui oggi però non abbiamo il tempo, magari parleremo. Le stoviglie compostabili, non più di plastica, l'ho annunciato Milano Ristorazione, però qualcuno dice non sono poi così meglio di quelle usa e getta, perché questo compostaggio è un po' complicato. Ne parleremo un'altra volta. Abbiamo un minuto, ti voglio chiedere però su un attimo su Roma, perché adesso sta venendo fuori questo assessore all'ambiente Muraro, vicino a Cerroni, re della discarica di Malagrotta, al di là delle inchieste, hanno vinto le lobby a Roma per ora, perché molti stanno dicendo non si possono fare zero rifiuti con una così. Tu ce l'avevi detto già un po' l'altra volta. Io l'avevo detto senza fare polemiche politiche che non mi riguardano, avevo messo le mani avanti che non mi sembrava la persona giusta, però comunque sappiamo il ruolo prioritario che ha il sindaco vuole fare rifiuti zero, come dice il 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle, l'assessore si deve conformare, per cui avevamo subito chiesto un incontro con l'assessore Muraro, naturalmente alla luce di quello che sembra, perché poi lì ci sono anche tranelli, trabocchetti politici. Però dobbiamo chiudere, mi dispiace, non c'è più tempo, che grazie Rossano Ercolini, ci risentiamo sicuramente, anche su questo, o l'assessore cambia linea o cambia l'assessore, questo mi sembra chiaro. 800 24 00. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. È sorto il sole su un piccolo mondo e vecchi banchieri stanno pranzando. Ti devi spingere ancora più fuori, che qui sei cacciato o cacciatore. La polveriera su cui sei seduto aspetta solo il gesto compiuto, e tutti fumano e buttano cicche. Hai visto il fuoco come si appicca? Giù come giungla. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è G come giungla, il nuovo singolo di Ligabue tratto dal suo album Made in Italy, che è una dichiarazione d'amore per l'Italia. La canzone ci è stata suggerita da Nicoletta da Verona, perché vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei Si può fare in musica, quindi se siete dei cantanti, dei cantautori, dei musicisti, ma anche semplicemente degli ascoltatori e ascoltate una canzone dove pensate che sia ben racchiuso il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, così noi la comunichiamo sui nostri social e la metteremo anche in onda. Potete inviarci i vostri consigli sui nostri account social, sia mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it, sia sui nostri account di Facebook sipuofare-radio24, oppure Twitter @sipuofare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Allora, si vede che non ero molto sciolto, che sono passate le vacanze, oggi è la prima puntata, insomma, lentamente per dicembre la dirò meglio, sì, dell'anno prossimo. Esatto. Allora, al 349-238-6666 ci scrive, vediamo se si firma. No, un ascoltatore non si firma, che però risponde al nostro appello su Si può fare all'estero, importato dalle vacanze. Visto in Spagna stazioni metropolitane che in ogni fermata hanno barriere in plexiglass rinforzato a separazione del marciapiede dei binari, con porte scorrevoli che si aprono all'arrivo del treno. Sai, in corrispondenza delle porte scorrevoli del treno, quelle cose che servono per evitare che bambini, anziani o anche qualche malintenzionato possa cadere nel buco. Mind the gap, dicono a Londra. Sì, ma è il vetro su, sì, tutta, su tutta la banchina. C'è a Milano, c'è in una metro, ma non, certo, mi ricordo quale. Nella Viola, nella Lilla. Ma perché? Perché la Lilla non ha il conducente, perché quindi non, conducente, non c'è un conducente che può accorgersi se sta succedendo qualche cosa e quindi non può frenare. Esatto. Invece quindi... c'è un altro, Max da Novara, che scrive sul caffè in capsula, di cui abbiamo parlato con Rossano Ercolini. Oltre ad essere inquinante, peggiora l'aroma. I buoni caffè italiani, cita anche delle marche, che non cito per non fare pubblicità, se non facciamo pubblicità, già la facciamo quando parliamo, per esempio, della Lavazza, che ha fatto per prima le capsule. Capsule. Ma si chiama Lavazza l'ascoltatore che sta scrivendo? No, da Novara chiama. Dice che le buone caffè italiane hanno tutte cialde ese, ovvero in carta, che è quello che diceva Ercolini della cellulosa, esatto, capsule, esatto, cellulosa. Ed è giusto che sia molto meglio quello, perché effettivamente se tu puoi riciclare nel tuo proprio umido di casa tua è una cosa che fai. Se sai che devi mettere in un sacchetto apposta dove c'è scritto cialde da portare, diventa troppo complicato, finisce come le pile, le medicine, un sacco di roba. Mauro da Imperia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ho sentito la signora che è stata in Spagna e io volevo portare un esempio proprio da un paese che è in Europa e che non sta meglio di noi, la Francia, la Castiglia. Trasporti, che cosa fanno? Tutti sappiamo che in Italia il problema è che 40, 45, in certi punti 50 non paga il biglietto dell'auto, perché c'è un'organizzazione che non permette di pagarlo oppure facilita quelli che non lo vogliono pagare. Io ho fatto per 10 anni l'amministratore e poi mi sono rottamato nel 2012. E che cosa ho visto e che cosa ho scoperto e che cosa ho parlato per capire? Il biglietto dell'autobus o della metropolitana o del treno in Spagna apparentemente costa tanto, 1,40 euro senza orario, senza avere a disposizione 90 minuti, poi ci sono biglietti di varie possibilità. Mi sono un po' perso, Mauro, sì, il biglietto costa caro in Spagna. Però non costa caro, no. Poi alla fine. Da noi costa di più, a Milano costa 1,50. No, ma non costa caro. Quindi qual è la conclusione, Mauro? La conclusione è che c'è l'autista che fa il biglietto, che ha un sistema, questo sistema nessuno sale da dietro. Ma dove questo, dove lo hai visto questo, Mauro? A Madrid, a Salamanca, a Segovia, in tutta la Castiglia. È una vecchia scuola. Perché un tempo a Milano anche si poteva pagare il biglietto sul tram, adesso non si può più. No, non è che non si può, perché io da amministratore mi ricordo che c'è un problema sindacale, la gestione dei soldi. Ma gli spiego in 30 secondi la motivazione del biglietto caro. Pullman nuovissimi, tutti, aria condizionata, comodi, perché chi paga ha diritto ad avere anche un servizio. Giusto, tutti, Mauro, giusto. Tessera, allora, in Italia se un turista viene dall'estero e viene a Milano ha un'impressione, se va a Roma, nella capitale, non ha l'impressione di quello che ha visto lei a Madrid. Non è concepibile che ci siano pullman che hanno più di 10 anni come... Va bene, Mauro, va bene, grazie. Devo dare la linea anche ad altri ascoltatori. Allora, con un po' di fatica ci siamo arrivati. Il suo si può fare, che importerebbe in Italia dall'estero in questo momento, è il biglietto fatto sull'autobus. Però che stava giustamente anche sottolineando che c'è un problema, perché chi lavora per l'azienda dei trasporti in teoria non dovrebbe maneggiare i soldi, c'è un problema, quindi o si mettono le macchinette automatiche anche su tutti i tram oppure è difficile. Vabbè, ma noi insomma stamattina volevamo così dare una botta, siamo ai primi di settembre, ancora un po' vacanziere, se state in vacanza in qualche paese avete visto qualche buona pratica, qualche soluzione intelligente che si potrebbe importare anche da noi, buttiamola lì, poi chissà certo. Che venga magari raccolta. Umberto Buratti della provincia di Lucca, che però è anche il sindaco di Forte dei Marmi, buongiorno, che però ci chiama in qualità di ascoltatore. Sì, che succede, sindaco? Ho sentito questa mattina che parlavate delle slot, questa, e volevo un po' dire brevemente che intanto noi a Forte qualche anno fa abbiamo, con un piano delle funzioni, cioè con un piano diciamo urbanistico, dato l'apertura nel centro del paese, e su questo siamo riusciti diciamo ad avere ragione anche all'opposizione fatta da un imprenditore, il Consiglio di Stato ci ha confermato che, così come avevamo operato, siamo riusciti, quindi abbiamo fatto bene. E quindi questa procedura che si può fare, cioè vietare alcune zone dove sì. aprire queste attività. Vabbè, sono tante le città che hanno fatto delle iniziative, delle ordinanze, sì. Quindi... Esatto, successivamente invece un'altra ordinanza sì. con la quale si limitava l'orario. Questo è stato fatto anche da altri comuni. E quali però, sono i risultati, sindaco? Ecco, volevo dire, quali sono i risultati? Buoni? Io, come il mio comune, i colleghi vicini questa attività non l'avevano fatta, e i vari soggetti che vogliono, che vendono, che hanno tabaccherie... In pochi secondi, perché sentiamo malissimo la linea, poi devo dare la linea al traffico, sindaco. Una migrazione verso quest'altre zone, quindi sì. Abbiamo, diciamo, fatto un accordo fra questi operatori e la nostra ASL, in maniera da definire con loro un decalogo di comportamento anche da parte di questi che hanno tabaccherie. Insomma, è complessa la vicenda, abbiamo capito. Io lo ringrazio, il sindaco di Forte dei Marmi. Non si sentiva benissimo la linea. Sono tanti. Era la linea fissa forse del comune. Del comune, bisogna intervenire. È complessa comunque la vicenda infatti l'abbiamo detto anche al sottosegretario Baretta, come farete a toglierle dai bar e dalle tabaccherie? Non è stato chiarissimo, ha detto che l'intento è quello, a meno che nei bar non ci sia uno spazio per creare una mini sala slot, nei bar non ci saranno più slot. Beh, perché è il tentativo di non rendere accessibile ai sì, minorenni. Però al bar non se ha le spiegato come faranno, perché è comunque complicato, c'è tutto un discorso di concessioni. Vabbè, questo era l'annuncio, staremo a vedere. Grazie anche al sindaco di Forte dei Marmi per il suo contributo. 800 24 00 24, adesso andiamo sul traffico. E poi torniamo con il super ospite, abbiamo un altro ospite. Si può fare, cronache da un paese migliore. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al proprio on di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso, quello che viviamo, ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso, e ancora un'altra estate arriva. Vabbè, il tormentone di Fedez e J-Ax, vorrei ma non posto. Magari uno ogni tanto non postasse qualcosa. Il sogno di sicuramente di Alessandro Sallusti. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno. Ma forse di molti. Vogliamo un po' aprire anche noi questo filone del digital detox, vogliamo chiamarlo così, i giornali, però noi dobbiamo dirle in italiano le cose, Carlo. Come facciamo a... La disintossicazione? La disintossicazione da internet, stare un po' senza rete, no? Perché... Ma secondo me intanto, siamo un po' esauriti, dai social, dai perché social. Da rete mi sembra un po' però folle, i social nel senso che passano internet... sulla rete, passano sulla rete. Vabbè, è il mezzo, il fine giustifica i mezzi. Alessandro Sallusti è stato qualche giorno fa, ha scritto un editoriale sul giornale, un po' sulla scorta di questa questione sollevata anche da Mentana del Webete. Cioè, i social che sono pieni di commenti che vomitano bile, sprezzanti a tutti i costi, che ci stanno un po' intossicando. Tu hai scritto, facciamo a meno di internet per un po', vedrai che non va malissimo. Ma sì, devo dire che io sono, è un giudizio, un parere interessato, un conflitto di interesse, perché i giornalisti della carta stampata sono un po' come i costruttori di caleste alla fine del secolo scorso. Che vogliono vietare le automobili. Che vogliono vietare le automobili perché capiscono che è finita. Il loro futuro non è roseo. Beh, ma già la missione è buona. detto questo, io credo che questo eccesso di democrazia, questo eccesso di libertà senza regole nuoce la democrazia. Apparentemente la rete è la cosa più democratica del mondo, ma una democrazia senza regole e senza limiti di libertà è esattamente il far west, cioè il contrario della democrazia, e soprattutto una democrazia che permette che i suoi cittadini circolino senza la carta d'identità, cioè nascosti dietro l'anonimato. E questo rende insopportabile il confronto. Cioè, tu dici che internet è quasi come se fosse una rete autostradale nel quale si gira senza patente e ognuno fa quello che vuole. Esattamente, ognuno fa quello che vuole, non tutti sono capaci di guidare, e poi diventa anche una democrazia vigliacca, perché se io devo dare un giudizio su una persona o su un fatto, io devo metterci la faccia, non è che posso nascondermi dietro il nickname e dire che Sallusti è uno stronzo. Dillo, insomma, questo sono d'accordo, perché è diffamazione, ci mancherebbe, però secondo me la metafora dell'autostrada non è tanto giusta. La metafora giusta è quella del bar, e al bar tutti parlano senza per forza, uno non deve essere laureato, non deve essere un giornalista, e ognuno dice la sua, però, perché se no sembra al bar illegale. La gente si conosce al bar, la gente si conosce con nome e cognome, perché guarda che sempre, a volte entra quello che dice un bianchino e tutti si voltano e dicono: chi è questo che vuole il bianchino? Dire, si assume la responsabilità con la sua faccia e con la sua fisicità di quello, e di vero, quello che vero, dice. Vero, può prendere un pugno, a me, perlomeno. Ecco, a proposito di Mara, c'è un altro fatto che mi inquieta, che queste persone che stanno connesse tutto il giorno col mondo, e quindi si sentono anche solidali perché parlano con un cinese alle 7 del mattino, mi sembrano molto quelle persone che aiutano il terzo mondo ma mettono la nonna nell'ospizio e non vanno mai a trovarla. Cioè è facile, come dire, non occuparsi del prossimo e stare in una comunità di prossimo. Questo effetto ci può anche essere con il digitale, col virtuale. Di casa, il prossimo è il bar. Io vai al bar a discutere con le persone invece che con uno anonimo dall'altra parte. Anch'io sento un po' questo bisogno a volte di un richiamo cioè di stare un po' staccato. Per esempio, io dico la mia, no? Allora, a me quello che dà più, le cose che mi danno fastidio sono sui cellulari le notifiche, che tu stai continuamente a guardare se qualcuno, questa ossessione del like, quanti like metto una foto dalle vacanze, quanti like ho avuto, e questo quantificare anche, no, le emozioni, diventa un po' una follia. Una discussione, per esempio, che forse non ci sarebbe stata, Alessandro Sallusti, è quella di Charlie Hebdo, la vignetta sul terremoto. Una discussione per certi aspetti anche interessante, ma anche un po' sterile, perché forse ci ha allontanato dal tema poi della ricostruzione del terremoto vero. Se non ci fossero stati i social che facevano rimbalzare quella vignetta, tutti impazziti a commentare, non l'avrebbe considerata forse nessuno, andavamo avanti per la nostra strada. Forse è un esempio. No, ma è un esempio calzante. Guarda, io noto che non c'è nessuna relazione tra il gradimento delle notizie sui social e il gradimento dei lettori del giornale. Significa tra l'altro che parliamo di due pubblici diversi, completamente diversi, solo in leggera parte sovrapponibili. Il lettore del giornale vuole che qualcuno faccia una selezione di notizie per lui. Esistono tanti giornali di tanti orientamento, per cui ognuno sceglie quello che più, col quale più si ritrova. Invece il social è il tutto, e il tutto spesso diventa anche il niente. Poi diciamocelo chiaramente, è pieno di egocentrici e di edonisti, perché insomma postare tutte queste foto ogni due minuti, io penso, immagino al mondo che gliene frega della mia foto mentre faccio colazione al mattino. Cioè, in realtà ne frega moltissimi questo, anche proprio della sua foto che fa colazione alla mattina. Però in realtà la cosa che mi chiedo è, cioè, dire tenete i cretini fuori da internet, la prima vera domanda è: chi decide chi sono i cretini? Perché c'è anche tanta gente che dice: beh, ma anche sui giornali c'è pieno di cretini, e dico apposta c'è pieno di cretini che scrivono, però nessuno propone di chiudere i giornali, semmai qualcuno propone di allontanare i cretini. No, sì, questo condivido pienamente, anche sul fatto che i giornali siano pieni di cretini. Non era nulla di personale. No, ma voglio dire, non è molto lontano, è una battuta paradossale, ma sta in piedi. Sono cretini patentati, allora andiamo a togliergli la patente. Invece lì sono cretini anonimi, dove vado a prenderlo io? Con chi? Io sono finito agli arresti per diffamazione. Per cose che ho scritto, certo. Per cose che tra l'altro non ho scritto io, cioè che ho scritto un altro ma di cui io ero responsabile. Ecco, chi mi tutela rispetto a questo? E quindi quella persona che si è sentita offesa dice: il cretino Sallusti è finito agli arresti, quindi ha pagato. Ma i cretini che ogni giorno insultano me da mattina a sera, a me come altre migliaia di certo. persone, ma chi li va a prendere? No, in questo però, se posso dire, questo è una lotta dispari. Ha ragionissimo, però questa è una questione della responsabilità su internet, secondo me, più che delle regole in generale o di chiudere internet, che appunto al di là della boutade, insomma, è una boutade fatta da molti dittatori. Non ultimo Trump nel 2015 propose chiudiamo internet, quindi è una cosa che si sente dire. Invece la questione della responsabilità è un'altra, perché uno dice: io non ho paura del mezzo, il mezzo è assolutamente inarrestabile, internet. Beh, quindi è come dire: siccome l'acqua calda la usano anche i cretini, vietiamo l'acqua calda. No, capiamo come distribuirla l'acqua calda. Quindi mi sembra che sia quella la domanda, cioè la responsabilità. Ormai, come dire, il problema che credo che qualcuno comincia a porsi, è troppo tardi, perché ormai la rete è un continente, credo che sia il secondo continente per numero di abitanti, ma non la rete, alcuni social, Facebook. 1,7 miliardi di utenti da solo. È il secondo continente del mondo. Esatto. Quindi, ormai è uno stato sovrano, e vallo a intaccare e dire: no, ma scusa, adesso devi mettere delle regole. Cioè, vieni sommerso da una risata planetaria. Certo, questo è il tema delle regole, però c'è. Perché e quindi tu che, il dittatore, sì. Tu prima dicevi, in alcuni, sì. I dittatori chiudono internet, ma io temo che il vero dittatore sia il padrone di Facebook o i padroni dei vari Facebook che ci sono. Quelli sono dei questo veri è un bel, dittatori. Questo è un bel paradosso. Però a proposito di regole, tu che sei comunque un liberale, forse anche allergico alle troppe regole, allo statalismo, eccetera, te la butto lì. In Francia, la loi du travail, la legge sul lavoro, che qualcuno ha parlato al nostro Jobs Act, eccetera, che è in corso di approvazione o già approvata, adesso non ricordo, prevede lo stop alle email di lavoro fuori dall'orario di lavoro, tra le tante cose. Allora, noi sappiamo che la Francia è la regina di queste leggi, a volte un po' velleitarie, ma di questo voler regolamentare, eccetera. Siamo sulla strada giusta per quanto riguarda anche il tema che dicevi tu, cioè di staccare, di allontanare un po' la rete dalle nostre vite, oppure non c'entra nulla? No, io credo che per esempio questa, come dire, io credo che questa tutela una libertà, questa legge va letta un po' nel contrario, tutela una libertà, cioè io ho il diritto di non essere agganciato a internet da mattina a sera e quindi non devo rispondere al mio datore di lavoro o se non sono agganciato a internet da mattina a sera. Quindi secondo me questa è una legge che va letta va letta all'opposto, ma io sono perché io faccio un lavoro col quale mi confronto ogni giorno con la rete, non è che la uso per lavoro. E quello, l'osservazione che faccio io, è ovvio che io sono liberale, quindi vorrei meno regole possibile, però il meno regole possibile deve essere per tutti. Allora, se c'è una macchina che può mettere un carburante di un certo tipo e un'altra che non può metterlo e le fai gareggiare insieme, è ovvio che una delle due è svantaggiata. Allora io dico, siccome il mondo di informazione, l'informazione che viaggia su internet è senza regole, e invece l'informazione tradizionale è piena zeppa di regole che manco fosse in uno stato di socialismo reale, sia per chi può scrivere che deve fare un esame di Stato, sia per cosa le parole che si possono usare. Io ogni tanto finisco sotto un processo di uno dei giornalisti perché uso una parola che mi è stata messa al bando dalla carta di Treviso. Sì. Tu dici però chi copia e incolla le bufale, già non gli succede nulla su internet. E poi dopo sulla rete invece si può usare tutto. Allora è un mercato drogato quello dell'informazione, cioè più che drogato, è un mercato truccato. Tanto io ci ho pensato, no? A questa truccato. Cosa delle bufale, sentite se questa potrebbe essere un'idea, se quelli di Facebook di questi grandi gruppi che hanno forza lavoro e cervelli da mettere a disposizione, potrebbero inventare un sistema, quando tu fai un copia e incolla dopo un tot numero di volte, perché le bufale, Sallusti lo sa, sono così, cioè sono spunti presi da qualche parte nel web e poi ricopiati uguali spesso poi n mille volte. Spesso poi un giornale invece di carta copia, ci casca nella bufala. Ma e lo mette non sul importa. Cartaceo sono le bufale che il copia e incolla, certo. Basterebbe un algoritmo che ti mette un bollino rosso che dice: guarda, questa roba qua è passata già nello stesso modo n mila volte, quindi mi viene il sospetto che non sia un'elaborazione di qualcuno, ma è solo una roba che gira, e questo potrebbe... Sì. Sì, sì, questo è verissimo, è capitato anche a noi di cadere insieme in incidenti, perché come avete detto i cretini non mancano neanche nei giornali, per cui uno vede una notizia su internet e si sente talmente, come dire, mi hanno già fatto il lavoro, no? E quindi copio e incollo più o meno senza via, controllare, senza verificare. Però io credo che in realtà sarà proprio, lo chiedo a lei se pensa che sia così, che in realtà è l'autorevolezza che bisognerà creare, nel senso che uno a un certo punto su internet ci saranno i siti dei quali uno si fida, perché daranno sempre notizie giuste. E quindi è in questo così. Modo la democrazia, quella di cui si parlava prima, che pare senza regole, in realtà si autoregolamenterà, perché uno dice, vabbè, ma io guardo solo questi perché gli altri sono siti di bufale. Questo è già così, se guardi la classifica dei primi siti in Italia, corrispondono con le testate giornalistiche che garantiscono la qualità del sito, cioè TG.com, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Messaggero, Il Giornale, cioè le due classifiche sono parallele, sono a specchio, perché proprio perché la gente vuole sentirsi garantita. Però sul copia e incolla c'è un altro problema che sta uccidendo l'informazione, che se io stamattina ho scritto un articolo sul mio giornale, siccome magari ho 7 fans in giro da qualche parte, questi, pensando di farmi un piacere, linkano, copiano il mio articolo con copia e incolla, lo linkano sui social network e il mio articolo, ancora prima che il giornale sia praticamente in edicola, è a disposizione di tutti gratis. Io l'ho già letto senza pagare il giornale, per fare l'esempio. E questo sta distruggendo un settore, letteralmente distruggendo un settore. Io non capisco perché dobbiamo pagare il caffè, non dobbiamo pagare l'articolo di Marco Travaglio piuttosto che di questo Vittorio è un altro grandissimo tema, è le grandi testate giornalistiche, tra l'altro ci stanno lavorando proprio perché bisogna scendere a patti con Google, Facebook, per trovare anche nuove forme di redditività. È un capitolo importante. Beh, Alessandro, ho sentito, ne parliamo, fare lo stesso capitolo. Discorso identico, sì. E mi piace accoppiarlo, diciamo, a Michele Serra, che ha detto identicamente, ha detto, ma com'è possibile, io scrivo la marca e poi le persone già la leggono senza aver comprato il giornale perché è online. Quindi mi sembra, quindi se Sallusti e Serra dicono la stessa cosa è un caso, esatto, già deve esserci un problema. Grazie, buon sabato. Grazie mille. Ciao. Allora, niente, abbiamo anche noi aperto questo filone, dobbiamo trovargli un nome in italiano. Digital Detox è veramente brutto, perché sembra una tisana strana. DD non lo possiamo chiamare perché è Dylan Dog, chiaramente, quindi vivere senza rete me l'hai bocciato, perché non è senza rete ma è senza social. Ma forse. Però vivere senza rete è bello, perché sembra in realtà dell'altro, sembra di vivere senza avere una rete di protezione, vuol dire buttarsi nel vuoto senza aver paura di niente. Dovremmo interpellare l'Accademia della Crusca, e lo facciamo. Prima o poi lo faremo. È il nostro sport preferito. 800-24-00-24, tra poco. Vuoi andare all'estero per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti, ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 con Giovani Talenti. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, eccoci qua, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. È il momento di Crowd Me Up, la nostra rubrica sul crowdfunding. Sul crowdfunding, allora, che poi dicono che pronuncio male. Pensavo, quando hai ripetuto crowdfunding, ho detto adesso cerca in diretta la traduzione in italiano. Perché noi cerchiamo sempre di dirlo in italiano, ma siccome il crowdfunding in realtà, Crowd Me Up, è tutto un sistema, un mondo delle iniziative finanziate dal basso che viene proprio dal mondo anglosassone, abbiamo voluto mantenerlo così proprio per significare che stiamo entrando noi in questo mondo. Ma l'Italia sta facendo grossi passi avanti. Una rubrica che facciamo in collaborazione con la piattaforma Apple e anche con con Back to Work 24, il gruppo 24 ore. Allora, la prima buona idea di oggi ha a che fare con il terremoto in Lazio. Un teatro per Amatrice è l'iniziativa promossa da alcuni esponenti del mondo del jazz italiano. L'obiettivo è raccogliere 100.000 euro per ricostruire il cinema teatro Giuseppe Garibaldi di Amatrice, un punto di riferimento simbolo per la vita naturalmente di quella città. È con noi Corrado Beldì, vicepresidente dell'Associazione Nazionale I Jazz. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Benvenuto, benvenuto. Allora, raccontaci come nasce questa iniziativa importante di crowdfunding. Beh, qualche mese fa, in occasione dell'organizzazione della grande giornata del jazz che era prevista all'Aquila per il 4 settembre, abbiamo lanciato un primo crowdfunding che era per regalare un pianoforte al Conservatorio dell'Aquila. E un crowdfunding nato anche grazie all'idea di Mirko Signorile, Giovanni Guidi e Claudio Filippini, tre musicisti che avevano lanciato un progetto musicale proprio a tal proposito. E quel crowdfunding ha avuto grande successo, una partecipazione corale, abbiamo avuto 50 donazioni e abbiamo donato il pianoforte al conservatorio in una bellissima giornata, anche con l'emozione di vedere non solo i pianisti ma anche degli studenti di pianoforte suonare. Evviva, questa è un'ottima notizia. E quindi, come dire, corroborati da questo successo, dopo purtroppo le cattive notizie del sisma nel Lazio, abbiamo pensato di lanciare quella che per noi è una grande impresa, ovvero raccogliere risorse per ricostruire il cinema teatro Garibaldi di Amatrice. Ho avuto la possibilità anche di visitare il centro città, il centro di Amatrice, di vedere le condizioni del teatro, che era una bella chiesa medievale che è stata trasformata negli anni 30 in teatro, cinema, e che ci confermano tutti era il centro pulsante della vita di Amatrice. Assolutamente. Senti, Corrado Beldì, di IJazz, l'associazione che promuove un teatro per Amatrice, se andiamo sulla piattaforma di Eppela, troviamo curiosamente che il progetto pare che abbia raggiunto il 900% dell'obiettivo, è il metodo con cui si misurano i progetti, no? Invece non è stato raccolto nemmeno la metà della cifra prefissata, però c'è una ragione, no? Che... Sì, è un dato tecnico, sì. Abbiamo fatto confluire, vogliamo far confluire sulla piattaforma almeno 100.000 euro. Abbiamo e stiamo progressivamente stanno versando da tutta Italia le raccolte anche di concerti organizzati il 4 settembre in diverse città italiane e quindi appunto siamo arrivati a oltre 47.000 euro, supereremo credo i 50 in questi giorni, però la raccolta continua ed è proprio il messaggio che lanciamo oggi. E lanceremo lunedì anche sui social media, la grande impresa è lì, si può raggiungere, però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Ed è solo andando step per step che possiamo essere sicuri che i soldi destinati poi vadano effettivamente tutti, perché uno dei meccanismi che vadano tutti ad Amatrice del crowdfunding è che se non viene raggiunto l'obiettivo le donazioni, diciamo, non vanno a buon fine. Siccome in questo caso noi vogliamo che vadano a buon fine, ma poi il problema è stato superato perché l'obiettivo è stato superato ma viene alzato e quindi si vuole arrivare a questa cifra di 100.000 euro per ricostruire il teatro di Amatrice. E questa è la prima idea, ascoltatori, che vi sottoponiamo alla vostra attenzione. La seconda buona idea di crowdfunding è quella che si chiama Orto Sole, arriva da quattro giovani di Perugia. È con noi in collegamento Valentina Cucurati, dell'associazione Orto Sole. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Con altri appunto tre amici avete l'intenzione di riqualificare un giardino del centro storico per trasformarlo in un giardino orto sociale. Volete raggiungere 3.300 euro. Per fare che cosa esattamente, Valentina? Salve, allora sì, sicuramente il nostro obiettivo minimo, diciamo, circa 3.000 euro, perché la nostra idea è quella di progettare questo spazio, quindi riqualificandolo, perché era uno spazio privato ma tenuto male, insomma, in disuso, era diventato quasi una discarica abusiva nel centro storico della città, per cui abbiamo avuto l'idea di prenderlo, riqualificarlo e progettarlo in permacultura. E i proprietari cosa hanno detto? Nel senso che se era privato era di qualcuno? Sì, i proprietari cercavano, noi siamo entrati un po' per caso, diciamo, a conoscenza dei proprietari che cercavano qualcuno che se ne occupasse. Potesse... Esatto, che perfetto. Se ne occupasse. Scusa, ci aiuti un po' sulla permacultura? Ci spieghi un po'? Sì, la permacultura diciamo che è, possiamo dire che è un metodo più che di coltivazione, proprio di progettazione, che si basa su principi e strategie ecologiche, permette di progettare appunto insediamenti agricoli che sono molto simili a dei veri e propri ecosistemi naturali ed è in grado di mantenersi autonomamente, di rinnovarsi anche con un basso impiego di energia. Abbiamo voluto scegliere questo metodo perché rispecchia diciamo in pieno anche un po' tutte le nostre idee, i nostri obiettivi come Ortosole, perché la permacultura è una sintesi fra la sociologia, l'antropologia, la natura, l'uomo, eccetera, perché proprio permette l'interazione tra uomo e natura senza che appunto l'uno possa dare fastidio all'altra, ecco, in qualche modo. Quindi l'uomo può interagire, può sfruttare. Il crowdfunding diventa, Valentina, invece un'interazione tra l'uomo e la finanza, diciamo così. L'uomo e la finanza. Potrebbe essere una spiegazione. Allora, dunque, io intanto faccio un'informazione, do un'informazione di servizio. Dalla settimana prossima le due idee di crowdfunding che proponiamo a CrowdMeUp, chiederemo un po' anche agli ascoltatori di essere coinvolti, di dire la loro, fare una specie di giuria. Così, di giuria popolare degli ascoltatori di Radio 24 che promuoveranno o bocceranno, decideranno quanto sarebbero disposti a investire su le buone idee che mettiamo a confronto. Quelle di oggi sono due idee molto diverse, entrambe importanti: il teatro per amatrici, un'idea di solidarietà; Ortosole, un'idea ambientale ma anche sociale, che viene da Perugia. Allora io vi chiedo a entrambi di chiudere con un appello a spiegarci perché Corrado Beldì, vicepresidente dell'associazione Jazz, che promuove un teatro per amatrice, perché qualcuno di noi dovrebbe investire 50-100 euro nell'iniziativa Un Teatro per Amatrice. Perché abbiamo messo le migliori professionalità del jazz italiano a servizio di questa causa, perché lo facciamo gratuitamente, perché una volta ricostruito ci occuperemo anche di organizzare dei concerti, di far ripartire la programmazione, perché senza un teatro non ci può essere una vita sociale e non si può davvero ricostruire Amatrice fino in fondo. Bellissimo, anche meno dei 30 secondi, quindi siamo andati anche a risparmio di tempo. Grazie Corrado. Carlo voleva entrare perché questo tema del teatro è importante. Perfetto. Però da regolamento non possiamo fare commenti all'appello esatto. Finale. Allora, appello che va anche a Valentina Cucurati di Ortosole, Perugia, perché dovremmo investire in questa vostra iniziativa? Perché in un periodo di grandi crisi ecologica, economica, sociale e morale, dove a molti viene calpestata la dignità, in cui non si guarda all'altro come ad una risorsa ma ad un nemico, Ortosole va controcorrente, sognando un luogo in cui la socialità e la relazione tra uomo e natura faranno da padrone. Quindi, riprendendo appunto lo slogan del video che spero vedrete sul crowdfunding, aiutaci anche tu a realizzare il sogno di Ortosole. Grazie, anche Valentina. Si risparmiano secondi su secondi, si vede che è una prima puntata, è incredibile. Tutto nei tempi. Allora, li regaleremo agli altri settimana prossima. Benissimo, grazie a entrambi i progetti, Ortosole a Perugia e Un Teatro per Amatrice, grazie per essere stati con noi. Io ricordo agli ascoltatori che basta andare sul sito di Eppela, ma anche sul sito di Radio 24 per trovare tutte le informazioni e per decidere di sostenere uno o entrambi questi due progetti, perché le idee buone si può fare. Perché si può fare è il programma delle buone pratiche, quindi e anche delle buone idee, esatto, meglio di così. Da settimana prossima proviamo a coinvolgere gli ascoltatori, quindi scaldate i motori, perché è divertente anche che diciate la vostra per promuovere o anche bocciare, perché no, certo. Questi progetti magari potete dare anche un suggerimento su aspetti da migliorare dalla settimana prossima. 800 24 00 24, ancora qualche minuto per intervenire in diretta con noi tra poco dopo il traffico. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Cool. hear her heart beating loud as thunder, solely stars crashing. David Bowie, China Girl, perché siamo in Cina e salutiamo il nostro amico da Pechino, anche se adesso credo che si trovi in Europa, Andrea Destro, architetto che vive normalmente a Pechino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Insomma, una delle voci che sentiamo ogni tanto dalla Cina, perché come si può perché fare? Perché non abbiamo moltissimi altri amici in Cina, cioè, giustamente. Purtroppo anche. No, purtroppo siamo senza amici in Cina. Allora, come si può fare nel mondo? Vi abbiamo scovato questa notizia qua. In una notte ha battuto un cavalcavia grazie all'intervento di 116 escavatori che in contemporanea hanno raso al suolo questo cavalcavia per far spazio a una nuova metropolitana. Insomma, sì, più che grazie agli escavatori, direi grazie a, evidentemente a una scelta politica di qualcuno che ha deciso domani mattina non lo voglio più vedere quel cavalcavia. È proprio questo, perché insomma, Andrea, noi fa un po' specie in Italia per tirar giù, non dico un cavalcavia, ma insomma un pilone fuori posto, ci vogliono anni e anni di autorizzazione e poi in genere non si riesce a tirar giù niente a livello di ecomostri. Raccontaci un po' come procede la Cina su questo fronte. Sì, in questo la Cina, diciamo, è molto diversa e una volta che una decisione è stata presa poi si muove veramente come un meccanismo perfetto e sincronizzato. Come un caterpillar in questo caso. Sì, esattamente. E non è fra l'altro neanche la prima volta, perché ora questo è successo da agosto, che hanno abbattuto 500 metri di viadotto in una sola notte. Ma a Pechino l'anno scorso, verso novembre, era stato sostituito interamente, quindi abbattuto e sostituito un ponte a 8 corsie in sole 48 ore. Quindi una volta ponte che... a 8 corsie in 48 ore, abbattuto e ricostruito? È ricostruito. Ma siamo sicuri che regge? Sì, apparentemente sì. Fino adesso sì, perlomeno. Fino adesso, sì. Questo è anche un risultato di tutti gli investimenti che la Cina ha fatto nelle infrastrutture negli ultimi 20 anni, e quindi hanno importato, se all'inizio probabilmente la qualità, insomma, le tecnologie che usavano erano abbastanza rudimentali, pian piano nell'arco di 20 anni adesso sono diventati anche all'avanguardia e riescono a fare queste cose che sono, insomma, sorprendenti. Insomma, la pianificazione cinese, perché noi siamo abituati a lacci, lacciuoli, qualcuno dice ce ne sono troppi, altri dicono che invece i pareri delle sovrintendenze, i pareri, le valutazioni di impatto ambientale sono tutte cose che servono per evitare di fare degli scempi. Poi ogni tanto, guardandosi intorno, in Italia di scempi ce ne sono talmente tanti che uno dice, ma servivano davvero tutte queste valutazioni? Forse allora ben venga il metodo cinese, dove il governo decide, e se decide bene i lavori vengono pianificati correttamente, perché... No, anche se decide male, però questo va detto, non è no, che... se decide male è un problema. No, questo forse è il problema. Mi viene da dire forse una stupidata o una cattiveria. Mi chiedo se i lavoratori che lavorano di notte in Cina percepiscono uno stipendio maggiorato per il lavoro notturno o anche sì, no. Sì, hanno lo straordinario. Perfetto. Sul lavoro questo sembra un po' assurdo, ma in qualche maniera anche la legislazione alle volte è anche più rigida di quella italiana. Allora non possiamo nemmeno fare campanilisti. Senti, non invece, dire, Andrea, veniamo a trovarti. Andrea, invece c'è quest'altra notizia a proposito di Cina, che quest'estate abbiamo visto tutti l'inaugurazione di questo ponte di vetro sul Grand Canyon di Zhangjiajie, credo che si pronunci. Sì. Alto non so quanto è profondo il canyon sotto il ponte, qualche centinaio di metri? Circa 300 metri. 300 metri. Che però è stato chiuso perché c'è qualcosa che non va? Sì, ma in realtà, allora, dalle notizie che si hanno, che poi vanno sempre prese un po' con le pinze, perché in questi casi, secondo me, c'è sempre anche molta paura dell'amministrazione locale di apparire come... quindi quello che dicono loro è che a livello strutturale in realtà non ci sono nessun tipo di problemi, ma c'è stato un afflusso di turisti estremamente superiore a quello che si aspettavano. Si aspettavano circa 8.000 visitatori il giorno, e invece sono arrivati in delle punte con 80.000 visitatori. Quindi loro dicono che hanno chiuso per il momento il ponte perché stanno aggiornando tutta l'infrastruttura. I calcoli, stanno facendo i calcoli, sono prudenti. Ci fa piacere. Grazie Andrea, dobbiamo chiudere. Grazie Andrea adesso. Grazie mille. Architetto che vive a Pechino e che intanto ci racconta alcune di queste notizie strabilianti che arrivano proprio dalla Cina. E un minuto per chiudere, Gioari da Torino, ascoltatore, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Cosa ci volevi raccontare? Vi racconto l'esperienza che ho fatto sia in Turchia, Istanbul, che in Polonia circa il trasporto pubblico. Sì. A Istanbul vi è un sistema per il quale tramite una chiavetta magnetica chiamata Akbil si può accedere con questa chiavetta a 4 mezzi di trasporto: il tram, la metro, l'autobus e le navette sul Bosforo. Mm. Vi sono dei totem ad ogni ingresso che permettono di sul quale si può ricaricare la chiavetta o acquistare un gettone. Cioè, ma non ho capito. L'abbonamento con i mezzi pubblici. Ma con una chiavetta? In che senso facilita magnetica questa chiavetta? Cioè, io arrivo e connetto la chiavetta? Cosa faccio? Una chiavetta magnetica. È come può essere anche una tessera magnetica. Esatto, è come la tessera magnetica a Milano per i mezzi pubblici. Ma si può accedere a tutti i mezzi di trasporto, dall'autobus alla metro, il tram, anche la nave sul Bosforo. Anche a Milano. La nave non ce l'abbiamo a Milano. L'abbonamento ATM, pigli la metropolitana, pigli il tram. Ma io non ho capito la chiavetta. L'autobus. La chiavetta, perché hai detto che è una chiavetta, è una cosa tecnologica nuova, diversa dall'abbonamento classico, Gioari? Ma perché non bisogna fare abbonamento, fondamentalmente. Ah, si ricarica di quanto si vuole, poi è come una tessera a punti praticamente. Va bene, dobbiamo chiudere. Grazie Gioari. Comunque anche tu a Milano c'è perché è ricaricabile. Hai giocato anche tu con noi al Si può fare nel mondo. Chi vince? Mi sa che non abbiamo tempo neanche di dirlo. Lo diciamo domani? Va bene, lo diciamo domani. Io devo dire due cose. Tanto poi chi vince viene contattato per i biglietti della mostra. Vai, Carlo. Volevo dire che è iniziato il Milano Film Festival, che è iniziato giovedì e a base Milano, per chi fosse interessato, va avanti fino al 18 di settembre ed è la 21esima edizione. Anzi, come amiamo dire, è la 1 più 20 perché è una ripartenza. Quindi i pullman è di nuovo per chi viene una da prima Catania li avete fatti? I pullman per chi viene dalla Sicilia, no? Certo, c'è tutto. E c'è anche la tesserina ricaricabile. Grazie a tutti, ci risentiamo domani. Ascoltatori, ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao.